Radio 24 Reportage. Tangenti a Stalingrado di Raffaella Calandra. Questo è stato un colpo basso per quella che era la piccola Stalingrado d'Italia. Abbiamo appurato che tutto il mondo è paese. È una situazione incresciosa, anche perché qui a Sesto è sempre stata, diciamo, da parte della sinistra, sempre rivalutata. Ma... Benvenuti nella città delle fabbriche, recita l'insegna di un museo. Benvenuti in uno dei fortini più blindati della sinistra, nella periferia nord di Milano. Benvenuti nella città che da medaglia d'oro della resistenza teme ora di diventare il luogo simbolo di una tangentopoli rossa. No, non se l'aspettavano i tristezzi, perché ne parlavano sempre bene prima. E poi adesso, insomma, è scoppiata questa cosa e non se l'aspettavano assolutamente. Un terremoto? Sì. Un terremoto vero e proprio. Il terremoto innominabile all'inchiesta che ha travolto l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, Filippo Penati, già presidente della provincia di Milano, già braccio destro del segretario del PD, cariche da cui si è autosospeso ora che la procura di Monza lo accusa di aver preso soldi nell'ambito della riqualificazione proprio delle zone industriali, l'ex area Falck e quella Marelli. Un peccato originale durato 15 anni, scrivono i magistrati, che condiziona tuttora le sue decisioni. Un peccato originale chiamato arricchimento privato, per dirla con le parole dei PM Walter Mapelli e Franca Macchia, e illecito finanziamento alla politica. Una sorpresa, perché comunque si pensa sempre che quelle persone non facciano certe cose. Si pensa che siano comunque persone più oneste di quello che poi si sono rivelate. È stato un buon sindaco? Per me sì. Sugli stradoni intitolati ai grandi industriali, con le pagine dell'Unità ancora affisse nelle bacheche, vecchi pezzi di fabbriche esposti a mo' di sculture, ma un'identità cittadina ancora tutta da ricostruire dopo la chiusura degli altiforni. Malvolentieri la gente parla dell'inchiestona che ha mandato in carcere l'assessore all'edilizia Pasqualino Di Leva insieme all'architetto Marco Magni, che lambisce il sindaco e getta ombre sullo stesso Partito Nazionale. Il momento sembrava buono. Poi dopo sai come le cose cambiano, eh? Ha preso e adesso le cagano bene. Uno se non fa niente non viene giudicato, non viene richiamato. Quello che gli viene contestato è proprio la sua attività, certo, da sindaco. Anche se è un argomento di 5-6 anni fa, ma prima o poi viene scoperta. Però la sinistra un po' le magagnelle li sta facendo. Vediamo l'esempio di Penati. Da lui non ce l'aspettavamo proprio, Sesta. Si rialzano le serrande dopo la chiusura agostana ed è un'altra città quella che gli abitanti sembrano ritrovare, la città che costringe il PD nazionale ad avviare un suo processo interno, una città che sembra dividersi tra chi sussurra, possibilmente lontano dai microfoni, che certe cose su Penati si sono sempre sapute e dette e cita i viaggi e il cambiamento del tenore di vita, e chi invece obietta che si tratta di accuse strumentali e tardive, una città che per la prima volta ora sembra mettere in discussione perfino l'esito delle future elezioni. Diciamo che oggi secondo me non c'è differenza tra sinistra, destra e centro, e io stessa penso che non andrò più a votare. Potrebbe riflettersi su questa cosa, che comunque ha tradito comunque i suoi elettori. E proprio alla poltrona di sindaco di Sesto era stato candidato e sconfitto nel 2007 uno dei grandi accusatori, Giuseppe Pasini, 81 anni, imprenditore. Ha messo a verbale di aver versato 3 milioni chiesti da Penati e dall'attuale primo cittadino. Insieme a lui punta il dito contro i vertici locali del PD anche Piero Di Caterina, titolare di una ditta di autotrasporti urbani. È quello che la procura chiama il sistema Sesto e che la gente del posto definisce la macchia della politica, come questo amico dello stesso Pasini. Io personalmente conosco pure Pasini. Chi crede quando dice che è stato costretto a pagare? Beh, io ci credo, perché il vecchio detto che chi va al mulino si infarina è sempre attuale. Che idea si è fatto? C'è un connubio, un intreccio strano tra politica e imprenditoria che non è molto bella. Pasini era una persona, una famiglia Veneto, sono venuti qui rimboccandosi le maniche, lui e due fratelli. Hanno cominciato direi dal nulla e hanno fatto molto. Nei primi anni forse si trattava solo di favori, una specie di baratto. E poi le cose fatalmente si sono ingigantite, i lavori sono diventati grossi. Dove ci sono appalti vige la legge della bustarella. L'obiezione che anche Penati fa, dice: quelli che mi accusano sono stati i miei sfidanti, i miei concorrenti da un punto di vista politico e che quindi parlano ora a scoppio ritardato. Ma non credo che sia tanto quello, non credo che si arrivi a quello. Ma perché secondo lei queste denunce sono arrivate a 12 anni di distanza? Le dirò, molto probabilmente perché l'accusatore si è trovato anche in brutte acque. Maybe, dicono gli inglesi, non si sa. Chi amministra rischia sempre, ammette il primo cittadino dell'ex Stalingrado, Giorgio Oldrini, figlio di quell'Abramo sopravvissuto ai campi di concentramento e sindaco della città subito dopo la guerra. Il suo nome è tirato in ballo sul capitolo riguardante la ristrutturazione del Palaghiaccio e dopo l'arresto dell'assessore gli avversari politici ne chiedono le dimissioni, ma lui va avanti. Innanzitutto io non ho ricevuto nessun avviso di garanzia, mi si accuserebbe di aver spinto a pagare delle rate per la trasformazione del Palazzo dello Sport in Palaghiaccio, decisione che è stata presa nel 1999 quando io facevo il giornalista di Panorama e non avevo nessuna idea che dopo 3 anni sarei diventato sindaco di Sesto. Il signor Pasini aveva preso un mutuo, fatto i lavori, sottoscritto una fideiussione per pagare le rate che doveva pagare, ha un figlio che è nel consiglio di amministrazione della società e quindi credo che più di così, semmai si tratterebbe di un intervento per migliorare una struttura comunale. Quindi secondo lei quelle accuse sono mosse da ragioni, diciamo, di rancore da parte di chi le fa? Registro solo che il signor Pasini era il mio avversario alle elezioni ultime per amministrative, che dopo 10 anni venga a raccontarci queste cose non mi sembra molto naturale. Però un suo assessore è stato arrestato. La vicenda di Deva per noi è una vicenda molto dolorosa e siamo attenti per capire cosa è successo e se è successo. Secondo lei Penati dovrebbe rinunciare alla prescrizione? Questo credo che sia una decisione che spetta a lui e soltanto a lui, credo che sia il momento in cui lui dimostri pubblicamente la sua estraneità. Lei pensa che questa vicenda avrà una ripercussione anche politica su Sesto? Questa città ha perso nel giro di pochissimo tempo 10.000 posti di lavoro, sono chiuse le fabbriche che erano la storia non solo di Sesto ma dell'Italia, è stata realizzata in parte importante una città nuova. Ne resta molto da fare, soprattutto le aree falche, e noi abbiamo fatto un cammino assolutamente trasparente. Adesso andiamo appositamente a discutere l'adozione del progetto in Consiglio Comunale l'8 e il 9 di settembre. È proprio il progetto sull'area falca che viene discusso? Certo, certo. Okay. Questo silenzio così duro da raccontare e poi ti dicono tutti sono uguali, ti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. La frase di Francesco De Gregori è stata ripetuta più volte all'apertura della festa democratica di Pesaro. Il PD fa i conti con un nuovo richiamo alla questione morale, scende in campo la commissione di garanzia del partito e fioccano i distinguo e le richieste di chiarimento all'ex capo della segreteria politica. Lui, Filippo Penati, torna ad assicurare la propria estraneità ai fatti contestati. Dice di non aver mai preso soldi né per sé né per il partito e mette nero su bianco in una lunga lettera che alla fine, se le indagini non dovessero chiarire tutto, non sarà certo lui a nascondersi dietro la prescrizione. Rinuncerà dunque alla prescrizione, come sollecitato da molti ormai ex compagni di partito. Anche per lui, infatti, la procura aveva chiesto il carcere per concussione, per aver cioè abusato del suo ruolo di pubblico ufficiale, imponendo alle vittime di pagare. Ma secondo il GIP, l'accusa deve essere piuttosto corruzione, chi ha pagato cioè era parte del sistema. Ma il reato che si prescrive in 7 anni e mezzo sarebbe già estinto. I PM di Monza, Walter Mapelli e Franca Macchia, hanno fatto già ricorso al riesame contro questa decisione, ma in attesa dell'esito dunque si avvia il processo interno al partito, voluto direttamente dal presidente della commissione di garanzia, Luigi Berlinguer, che l'ha convocata senza neanche consultare gli altri membri, dice, di mia iniziativa, spiega, aprendo ad una revisione dello statuto del PD. Non Abbiamo il dovere di sapere per dettare i nostri comportamenti politici di partito. Qualunque iscritto che venga a conoscenza del fatto che si determina una situazione che può nuocere alla credibilità del partito deve comunicare l'esistenza di questo problema alla commissione provinciale. Ho chiesto a Penati se ha fatto questo. Io avevo per il nome convocato dai presidenti delle commissioni regionali di garanzia delle 20 regioni per discutere del rapporto che c'è fra garanzie interne al partito e regole di comportamento e quindi la coerenza. Noi siamo un partito che combatte la corruzione politica, che purtroppo alberga in modo diffuso nel nostro paese e che non deve minimamente sfiorare la nostra attività, evitare non soltanto l'interesse privato, ma neanche l'interesse del partito quando questo potrebbe portare a violare norme di comportamento corretto. Noi dobbiamo essere più rigorosi della cosiddetta moglie di Cesare. La politica è un servizio, ne deriva tutto il resto. Luigi Berlinguer porta lo stesso cognome di quell'Enrico che per primo richiamò la questione morale alla sinistra, ma ora, avverte Luigi, certi principi è importante ripeterli perché altrimenti si perdono. La storia non ha nascondigli. La storia non passa la mano. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.